sto presidente, già lo tolgo, non ci sono problemi. La volta che non ce ne c'è male uno, allora mi va fastidio se tu sei un altro canale, ma con i segnali forti non ci sono problemi. Su, guarda, senza andare in amare, bibi. Salve, aiutamelo là quel frese, se io ti do quello. Ah, questo l'ho comprato all'asta, questo non si tocca. A 40.000, Franco ce l'ho, a 40.000 da me, non mi dà nessun problema. Ho questo apparecchio, perché io l'avevo già appesato questo apparecchio, tanti anni fa, quando c'avevo a Claudio a fianco, abitavo la mamma. Con questo mi salvo, se metto un elevato per lo 48 per lo coso è messo, lui ho finito di durare. Ah, mi sentite? Musi, già ti sentiamo. Sammy, se tu vedi questo l'apparecchio, vieni, me lo porti più a vendo il freezer. A piedi. Ah, cosa? 140, cosa c'è? Cosa 140? L'apparecchio, quanto ne pesa allora, lo sai? Peccato che non c'è il numero di telefono tuo, sennò ti avrei mandato la fotografia. Guarda, io adesso lo sto usando con il microfono del pizzo, io qua non c'è per quello di più 5, lì funziona a camurata. E perché io non lo sto usando con l'MB più 4? Guarda, adesso mi... Ah, la voglia scaldato, lo butto qua, ma io la sera, guarda si abbasso. Adesso sono liscio Casalì, cambio. No, va bene, se vedi va bene. La moglie che va bene. Ah, se vedi, cioè se fosse già te l'ho mandata la foto, ma c'è un attimino che pacca e dai, un attimino a crediti. Se mi vedi con la migliore occasione come posso salire su, se posso venire gli occhi. Va bene, non ti preoccupare, faccia tutto così che già va bene. Ciao ragazzi, io vado a mangiare, se coincide stasera, se no le prossime, dai. Ok. Adesso va bene la radio, non so lei. Gappa, c'era uno sotto, va benissimo. Stavo dicendo del presidente, claro, non so se l'ascolto, che è molto selettivo, non prende colpi non la prende. Cioè Franco ce l'ho qua a fianco attaccato e io muovo tranquillamente nel canale, lui può fare le prove, gli altri canali, non mi dà nessun disturbo. Se metto un 48 o un omologato a coso, se lo spegni il malacchino, non senti più nessuno. Lui è da 48 da macchina, no? È da gas, se già nulla. Va bene, dai, ciao ragazzi, va a pappare, ciao. Sì, non è mancavano. Va con la tennina, no? Non te ne abbisli. Quando attacchi la tenna manna di pigli di coppe. Aspetta, cosa entra? Siamo attaccati con Franco. Franco è passato a fianco al mio, lì, non è compreso. Quindi cosa entra? Antennino o antennone? Se pigli c'ha ragione, siamo attaccati, capito? Quello è per trasmettere in distanza, logicamente devi avere l'antenna alla manna e portare la targa di furia, capito? No, è tutto l'apparecchio che... È buono, perché io me lo ricordo quando Claudio abitava vicino a casa di mamma, che eravamo vicini, e mi dava fastidio se eravamo pochi cani di differenza, ma con un K, con 100 watt, se mettevo un baracchino meno alto mi accendeva il baracchino e la lavatrice pure a casa di mamma. La differenza è... Cioè, la differenza c'è, perché quando c'è un'antenna sul tetto di figlia è pieno di figlia, e quindi non è mai, c'è sempre l'angolo buio con un'antenna di macchina, e lo so per esperienza, perché ci ho già avuto pure io dal balcone, già lo sai, da che andai giù via a Zughiccia c'è una differenza enorme, cioè. E se qualcuno è in zona a me, l'unico che mi dà colpi è Gianni lo profeta. Qualche cosa, ma Natalino non lo sento quasi, però perché è vicino, se no gli altri non mi disturbano. E poi io esco sempre basso, capito? Capa, se Natalino è troppo di più già lo sento, ma un poco però. Capa Rogero, capa e poi Rogero. Io spero che il tempo migliori, in maniera di poter migliorare. trovare anch'io le mie prestazioni. Altro non posso dire. Speriamo bene. Ho rifatto il cantone della manta, adesso ti mando la foto. Ho mandato Claudio, se ti ancora ascolto, ti ho mandato il video. Hai fatto bene, a Marco Panatella come ti si deve. Purtroppo la ringa non si può montare, no, così no, perché magari è fatta per il tetto, è fatta, non è fatta per il balcone. Se vuoi un'antenna al balcone è buona, devi metterci la boomerang, quella grande. Allora sì, chi pompa il burro dai chi vedi. Cos'è il bruciarlo? Mi ha già detto di mettere l'antenna che ha messo con Luca, con quella che va bene, sulle ringo, sono fatte apposta per il congiolo, hai capito? Cosa hai detto, Charlie, che ti ho sentito lontananza? Capa, ce l'ho avuta tanto tempo la boomerang. Poi un momento che l'avevo venduta, che l'avevo data, ce l'avevo nel congiolo di mamma la boomerang, l'ho avuta per tanti anni. E trasmetteva bene, nonostante che era in mezzo ai palazzi, ero proprio, la mamma già era in basso, non è che, secondo piano, nel terrazzino, l'antenna, lo sapezzindi. Che ti ho mandato il video, di come ho fatto il piantone della mantova. Non è arrivato ancora, non so, adesso appena arriva lo controllo, non c'è problema. Va bene, dai, ci aggiorniamo ragazzi, a frappè, che devo andare a mangiare, ciao. Allora la radio è una fucilata, segnale 9-10, compiti positivi, e la radio è una gallonata. Questo è il 4.30 con l'MC60, liscio, 20 watt modulati. Poi, la fucilata sì, certo, per la radio tua, diciamo, la radio tua, per carità non è che se dicevo che l'altra non servono, però logicamente si sente un po' di compressione, ma dalla lunga distanza, con quei watti lì, arrivi in lontananza. Logicamente non potete avere lo stesso segnale con questa radio con 20 watt, è tutta una questione di matematica. Infatti l'ho inserito giusto per, ma mi interessa usarlo, non aggiungerlo più lui con nessuno, l'ho inserito perché mi serve più avanti e devo iniziare a farlo scaldare, capito? E quello è una mia HF che ci vorrebbe 700 euro usato, capito? Quindi va bene, qui per la 27, ma non frega niente, già c'ho le radio e arrivano sino a 100 watt, quindi non me la fotte nulla, già ci sentiamo tutti, non è un problema. Va bene ragazzi, vi saluto, vi abbraccio, buon pranzo a tutti e stasera se coincide, ciao, non mi prendo più, appena arriva quel video se lo controllo, lo guardo. E a capo piantone, io ho rifatto la roccia, aveva l'avvolgimento del rame che era pratico, c'è un muro d'acciaio che collegava poi il filo che andava al PL della Frasicuro Mattesi. L'ho rifatto tutto quanto, però invece di riutilizzare il bullone d'acciaio, il dado del bullone, io l'ho fatto diretto, passa nel buco, entra e va a uscire dal PL. Ed è nuovo, rigenerato. Rigenerati tutti gli attacchi dei radiali, i radiali ho comprato quello che mi hai detto tu, poi al limite li accorcerò, io sono una misura, adesso non mi ricordo quanto sono, poi se c'è da accorciare li accorcio, prima li provo così interi come sono, e vediamo un po', dai, alla mia occasione, se domani c'è tempo buono io sono libero, scendo in campagna, la metto sopra 2-3 metri sollevata dal terreno, mando un paio di messaggi, chi mi risponde per fare un paio di prove è buono, se no pazienza. Magari mandami un WhatsApp, te lo ricevo prima, capito, Sari? E poi ci vediamo, vai. Ok. Ciao a todos, a frappè, ciao. Ciao, ciao, Crash, stiamo. Ciao, Claudio, buon pranzo, vai. Staccato le stazioni orarie, 1-1, 1-1, potenza 8 watt. Scendo con 8 watt, 1-1 in stazioni orarie. Quando aggancio sta piovendo, l'antenna è tutta bagnata, mi seguono 1-7 e anche accordando, cioè sono accordato ora, attenzione, accordando meno di 1-7 con la pioggia le faccio scendere, con 110 watt l'antenna. E allora vai di meno, esci meno, con meno potenza e basta, va bene, sono sufficienti per sentirci meno. Sì, no, ma io poco fa, a parte l'ho acceso per farlo scaldare, ma poi perché volevo farmi sentire da Franco, da Sorso, poi Franco ha chiuso, ciccia, se no manco acceso lo avrei. ok? Dai ragazzi, io per questo passaggio ne approfitto, vi saluto e le vado a spappare, si vuole dico a Cagliari, ok? A mangiare che dopo a me mi aspetta il lavoro. Buona domenica a tutti e buona giornata, a risentirci. Ciao Natalino, ciao Antonio, ciao Claudio, ciao Pompolo. Quello qui a partire. Prossime, se coincide più tardi. Ok, la taglia tetto copiata al centro, sotto sicuramente c'era un bombolino. Antonio, eri tu sotto? Cappa, io ero. Ciao, ce la recendiamo. Salve, sì, ero io, no, c'ho pochissima potenza. Pochi watt proprio. Pochi watt, è quasi sempre buono, quasi 9,25 qua. 9,20 a mollante, quasi per 9,25. Ma la Natalino è arrivato un attimo più forte, dai, completo a lui. Dai, buona domenica di nuovo, ci sentiamo. Ciao ragazzi. Cappa, poca roba. No, non c'è problema. Ciao, ci sentiamo. Fatti Natalino. Anto, sto chiudendo anch'io che me ne vado a fare un riposino, là, ci sentiamo più tardi se ci si. Dai, ce la risentiamo. Claudio, ci sei ancora per saluti. Ciao Anto, un abbraccio a tutti, dai, ci sentiamo più tardi se coincide. Io sentito da lontano, Sorvego, Natalino, a te a tutti. Con pochissima potenza come arrivo lì? È il segnale più alto che ho con bassa potenza, tu sei 9,10, Natalino 9,5, vabbè Sanvedio è 9,9, quando attacca 7 quando è staccato, 9,10 sì Antonio, 9,20 quando attacchi, ultimo segnale che ho già detto. Appagato, no già va bene, già l'hai visto tu, è l'indice questo, il 550 power. Va benissimo, sei liscio praticamente con poca potenza, va bene. Gappa, dai. Ok, dai, ce la risentiamo, io mi faccio un fisolino, che a Giovanni a dov'è? Ha già fatto un riso, buona rete, è uscito. Già è buono, va bene, ottimo per la truppa. L'importante è che sia sempre a Magnanto, la burra e a frutti. Ciao ragazzi, a frappè, statemi bene, ciao. Ma di denaro non so assai. Oh, Magnano manca i nonchi. E non è che pure un mezzo licchinoso me. E compare Gio, una roba di lusso. Ok, dai, ce la risentiamo, ciao. Ciao Antonio, ciao Claudio, alle prossime, dai, buona domenica a te e due. Ciao.